Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, questa è Radio 24, Italia in controluce, l'approfondimento del nostro giornale radio. Il tema di oggi sono le primarie del Popolo delle Libertà, che proprio in questi minuti sono in forse. Allora, prima saluto Vittorio Feltri, editorialista del giornale. Buongiorno Feltri. Buongiorno. E ci colleghiamo insieme, così ascoltiamo quello che ci dice Elisabetta Fiorito. Dove ti trovi? Io mi trovo a Via del Plebiscito, è da poco arrivato qui Silvio Berlusconi e dovrebbe svolgersi un vertice con il segretario PDL Angelino Alfano. Il problema è proprio, sono le primarie del PDL, sappiamo che il Cavaliere non è mai stato convinto di questa scelta, adesso si stanno prolificando i candidati e a questo punto bisogna capire anche se c'è il tempo necessario per indire le primarie del PDL, visto anche l'election day fissato per molto probabilmente il 10 marzo. A questo punto non si sa se c'è tempo per indire le primarie e se Berlusconi e Alfano decideranno poi di cancellare questa competizione. Ecco, per il momento non ci sono naturalmente ancora decisioni, le sentiremo nel corso del giornale radio. Grazie Elisabetta Fiorito. Allora chiedo agli ascoltatori se credono al valore delle primarie anche nel Popolo di Libertà. Soprattutto questa domanda la voglio rivolgere agli elettori del centrodestra, e se farebbe bene Berlusconi ad annullarle, visto il gran casino che sta avvenendo all'interno dell'ex partito di maggioranza. Feltri, farebbe bene Berlusconi ad annullarle? Ma io credo che il tempo per fare le primarie ci sia, nonostante sia stato fissato il giorno delle elezioni in marzo, perché da qui a marzo mi pare che manchino ancora 4 mesi. Ma al di là di questo è evidente che le primarie nel PDL potrebbero essere un flop, nel senso che sono più numerosi i candidati degli elettori, e che assume addirittura delle connotazioni umoristiche. E di questo immagino che Berlusconi si renda conto. Certo è che annullando le primarie dopo tutto il battage che è stato fatto, si finirebbe per esautorare ancora di più Alfano, che invece è stato un alfiere delle primarie stesse. E allora qualsiasi decisione verrà presa in questo partito, se lo vogliamo ancora chiamare partito, provocherà dei danni. Ecco, allora credete al valore delle primarie nel Popolo di Libertà e farebbe bene Berlusconi ad annullarle oppure a mandarle avanti? 349-238-6666, resti con noi per questa puntata di Italia contro Lucio Felti, che così con Anna Marino ascoltiamo alcuni di questi candidati che hanno già sostanzialmente annunciato la loro scesa in campo dal punto di vista politico. Sì, come abbiamo visto i pronostici, Daniele, non sono solo sulla data ma anche sulla rosa dei nomi. Noi abbiamo sentito alcuni, Guido Crosetto, candidato alle primarie del PDL, che sostiene che le primarie non sono un modo per fare una resa dei conti interna al partito, ma un momento per fare proposte alternative al governo Monti. Per questo crede nel loro valore e lancia i suoi punti programmatici. Sentiamo. Ci ha bisogno in questo paese di ripartire da chi produce la ricchezza. La ricchezza viene prodotta dalle aziende. Da 4 milioni e mezzo di partite IVA bisogna ridare la possibilità a queste persone di lavorare, facendo una fiscalità che premi chi ha ancora voglia di investire in aziende, chi ha ancora voglia di dare posti di lavoro, chi ha ancora voglia di fare ricerca, chi ha ancora voglia di mettere su un capannone, di comprare macchinari, perché se io non alimento la parte di produzione di ricchezza, non consento a queste aziende di sopravvivere in questo periodo di difficoltà, è impossibile poi declinare una spesa pubblica che vada a riequilibrare la ricchezza del paese. Noi adesso ci siamo concentrati esclusivamente, soprattutto questo governo, nel pareggio del bilancio dello Stato, senza renderci conto che facendo questo stavamo mettendo in crisi chi a questo pareggio contribuisce pagando tasse e creando posti di lavoro. Attenzione all'economia reale, quindi ci vogliono anche dei tagli? Assolutamente sì, ma più che altro la spesa pubblica va intanto resa efficiente. Fin quando non portiamo criteri di meritocrazia e mi passi di punizione all'interno della macchina pubblica, difficilmente potremmo farla funzionare. Un pronostico sulle primarie, si faranno o non si faranno, quando? Mi sono candidato perché penso, significa che pensi che si facciano, poi il quando, il come lo decidono altri. 349-238-6666, il valore delle primarie nel PDL, ci credete? Berlusconi deve farle o annullarle? 349-238-6666, ha sentito Feltri Crosetto. Non è che ha la stessa idea mia, cioè che il Popolo di Libertà comunque era un partito che si è andato ad organizzare soprattutto sotto l'ombra di due figure chiave, cioè Berlusconi e Fini. Fini se n'è andato, è rimasto Berlusconi. Berlusconi ora sembra essersi un po', non dico ritirato, ma comunque messo un po' in seconda linea, anche se poi non sappiamo se è vero, se è così. E cosa resta di questo partito? Lei che è stato un osservatore delle cose del centrodestra. Ma io osservo anzitutto che gli attori potenziali di un centrodestra accettabile ci sono ancora tutti. Quindi basterebbe creare un tetto idoneo a raccoglierli nuovamente in un unico movimento. Questo purtroppo fino adesso non è stato fatto, anzi le iniziative che sono state prese hanno ulteriormente disperso l'elettorato e quindi adesso il problema diventa veramente molto grave, perché per quanto manchino 4 mesi alle elezioni, insomma, il tempo per riorganizzarsi, certo, credo che sia poco. Allora, devo dire sì, che condivido in pieno il ragionamento di Crosetto, non fa una grinza. Tuttavia Crosetto, proprio perché è molto bravo e ha le idee molto lucide, non vincerà queste primarie, perché sappiamo che saranno pochi gli elettori simpatizzanti del centrodestra che eventualmente voteranno per le primarie, in quanto nauseati, stanchi e non riescono a capire quale sia la linea fondamentale del PDL. Cercasi novità primarie PDL nei candidati e programmi, dice Luigi da Cagliari. Sì, Berlusconi deve farle, dice Mario da Treviso. Ci credo, come credo in Pinocchio, dice un altro nostro ascoltatore. Si devono fare, dice Piergavino. Il PDL in questo modo è ridicolo. Berlusconi farebbe bene a farsi definitivamente da parte, scrive Leo. Il PDL deve fare le primarie, altrimenti il partito si squaglia, dice un altro nostro ascoltatore. E un altro, Gregorio da Catanzaro, dice: primarie o non, bisogna avere attenzione all'economia reale, basta economia di finanza, parlarsene di cose reali, i candidati. Allora sentiamo un altro candidato, sentiamolo insieme, Anna Marino. Sì, Micaela Biancofiore, coordinatrice regionale di Berlusconi e candidata alle primarie, oltre alle sue proposte sottolinea la sua contrarietà alla data del 16 dicembre per la consultazione, sentiamo. Se si tratta del piano programmatico per l'Italia, il mio primissimo punto, che è il mio cavallo di battaglia, che è la cosa più seria, perché oggi è l'economia il problema del paese con grande evidenza, è la detrazione di ogni scontrino e di ogni ricevuta fiscale dalla dichiarazione dei redditi, cioè dalle tasse. Cioè, cosa significa questo? Che se una persona va a comprarsi un frigorifero o va dal parrucchiere, deve pretendere la ricevuta, la fattura, se la può portare in detrazione né più né meno, come succede in America, con un'aliquota fissa al 33%, le tasse le pagherebbero tutti, riaumenterebbero i consumi. Questo per la crescita punto. E per i tagli? Per i tagli credo semplicemente che dovremmo fare il taglio del 50% addirittura della spesa pubblica. Massimo Forni da Bologna, che ha fatto il 349-238-6666, dice che la gente del Popolo delle Libertà vuole solo Berlusconi. Ecco, Feltri, proprio per concludere, abbiamo pochi secondi, è così in realtà? Cioè alla fine tutti questi candidati, ma poi il Popolo del Popolo delle Libertà alla fine vorrebbe solo Berlusconi? Ma Berlusconi è stato l'iniziatore del fenomeno centrodestra. Però oggi come oggi può anche essere non più una risorsa, ma addirittura un freno per la ristrutturazione del partito. Bene, perché... siamo in chiusura, Felte, io ti ringrazio, naturalmente i tecnici e Anna Marino, vi ricordo domani ancora come sempre a quest'ora Italia in controluce. Domani parleremo delle primarie del PD, ma daremo soprattutto i numeri in quanto vi daremo le istruzioni per l'uso.